24 mattino. Oh, sono le 8:18 minuti, eccoci qua con 24 mattino. Scusate, sto sfogliando un po' di giornali. Eccoci qua, fa molto diretta. L'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani. Ma sei eri tutto girato qua dall'altra parte, no? Stavi sfogliando i giornali. No, mi stavo preparando per dopo. Allora, oggi parliamo di un euro che corre molto. Parecchi. Che corre molto, ci sono motivi ovviamente economici, ci sono anche motivi personali di Deborah Rosciani, che sta preparando il suo viaggio negli Stati Uniti e dunque tutta contenta partirò ad agosto e chissà quante sorprese. D'altronde, guarda, anche l'ultima volta che ci sono stata negli Stati Uniti, mi riferisco all'anno scorso, sono stata a San Francisco a novembre, ero partita piena di speranze perché lo stesso era stato un anno in cui l'euro aveva ripreso a correre sul dollaro, a luglio aveva toccato 1,5990, sono partita io, il cambio praticamente si è dimezzato, per cui non ho potuto fare tutto lo shopping. Tempi duri per l'euro ad agosto, confido in quest'anno. Allora, diciamo che un po' con ancora l'imperversare, anche se si è un po' ridimensionata, dell'influenza suina, magari in questo momento non c'è molta voglia di andare negli Stati Uniti per vacanza, magari c'è chi invece continua a fare avanti e dietro per lavoro. In questi giorni lo sta facendo un po' più volentieri del solito perché il dollaro sta viaggiando ai minimi dell'anno sull'euro, è meglio dire che è l'euro che viaggia ai massimi dell'anno sul dollaro. Buongiorno e grazie di essere con noi a Soldi e Dintorni, ad Angelo Drusiani, direttore investimenti di Banca Albertini Sitz. Allora, 1,43, il top del rapporto di cambio che è stato toccato martedì sera, ritoccato poi ieri mattina nel corso della giornata. Ieri il biglietto verde poi ha recuperato, stamattina siamo intorno a 1,41,60, sempre però sui massimi da gennaio. Questa piccola ripresina del dollaro di ieri ha permesso anche un pochino di calo del prezzo del petrolio, $66.50 al barile. Allora, oggi a Soldi e Dintorni una piccola panoramica sulle valute, perché il cambio non interessa solo chi si sposta per viaggio o per lavoro, interessa anche molti investitori. Questo è un settore di investimento che attira un numero crescente di investitori, anche se sono magari coloro che hanno un profilo di investimento un pochino aggressivo, perché, Drusiani, io vorrei ricordarlo con lei, il mercato delle valute è un po' più volatile rispetto agli altri mercati che conosciamo meglio, quello azionario e obbligazionario. È sicuramente più volatile, basti considerare che ad esempio nel 2003 il dollaro si svalutò di oltre il 23% nei confronti dell'euro, poi è continuato anche negli anni successivi, nel senso che non esistono monete forti e monete deboli, esistono monete e nient'altro, quindi monete che sono soggette molto spesso ad oscillazioni di carattere economico, molto spesso poi ne parleremo di carattere politico. Mm-hmm. Ecco, sì, infatti c'è il tema anche politico molto interessante, perché in questi giorni c'è anche la presa di posizione del cancelliere tedesco Angela Merkel sulla politica della Banca Centrale Europea, che peraltro si riunisce proprio oggi, ma i tassi dovrebbero rimanere invariati all'1% nell'eurozona. Drusiani, o avete un'idea diversa? No, io credo che rimarranno fermi ancora per un po', perché già secondo me la Banca Centrale Europea è spaventata dal fatto che il prezzo del petrolio potrebbe riprendere a salire, quindi con effetti sull'inflazione che non sono proprio graditi. Di conseguenza non credo che deciderà di tagliare il tasso allo 0,75 in tempi abbastanza brevi, sempre poi che lo faccia. Allora, come mai l'euro ha ripreso a correre, se almeno siete di questa opinione, sul dollaro da qualche giorno? 1,43, il rapporto di cambio, il top è toccato, siamo ai massimi dell'anno. Drusiani, io, se non ricordo male, questa ripresa di corsa è cominciata un paio di settimane fa, quando è stata declassata la Gran Bretagna e si temeva che lo stesso giudizio negativo da parte delle agenzie di rating potesse arrivare anche sugli Stati Uniti. In realtà la corsa è cominciata forse un pochino prima. Beh, esattamente, però quando le voci si sono diffuse sulla possibilità che gli Stati Uniti, il debito degli Stati Uniti avrebbe potuto essere ridotto da tripla a doppia più, qualche problema c'è stato sul cambio. Io però rimango sempre di una vecchia opinione che ho espresso più volte, che alle autorità americane faccia molto comodo che il dollaro si indebolisca, perché il prodotto interno lordo può crescere grazie alle esportazioni nei paesi che sono concorrenti, tipo l'Europa stessa. E quindi un dollaro debole piace molto, come è piaciuto peraltro negli anni passati. Anche perché questo è un momento in cui gli Stati Uniti purtroppo non possono continuare a confidare molto sulla ripresa dei consumi interni. Fanno un po' fatica perché soprattutto l'occupazione tende a diminuire di 500.000 circa di persone ogni mese, quindi questo ha un impatto nettamente negativo sulla propensione ai consumi, di conseguenza è evidente che se i consumi non riprendono a salire in maniera importante, di conseguenza è difficile che il prodotto lordo possa crescere in maniera altrettanto importante. Quindi insomma questa tendenza della moneta unica europea verso il biglietto verde potrà ancora continuare per qualche tempo, come vedete il rapporto di cambio da qui all'estate, e non per interesse personale, glielo chiedo, ovviamente, no. Ma puramente per interessi professionali. Sì, assolutamente. Tenga conto innanzitutto che il rapporto tra euro e dollaro non incide solo su chi viaggia, ma incide moltissimo, come lei faceva riferimento, sugli investitori, perché che lo si voglia o no, se l'euro si rafforza troppo, è chiaro che il debito, il prodotto interno lordo dell'euro tende a non crescere in maniera importante, quindi sono importanti i riflessi sull'andamento dei tassi di interesse. Cosa accadrà sul dollaro? L'impressione è che il dollaro rimarrà ancora debole a lungo, perché la prima ragione, dicevo prima, è quella che fa comodo alle autorità americane. La seconda ragione è che la crescita economica americana, che peraltro dovrebbe essere la prima ad uscire dalle difficoltà, perché è stata la prima ad entrarvi, non mostra ancora segnali importanti. Non mostra ancora segnali importanti perché il debito pubblico sta salendo in maniera esagerata. Enorme. Il vantaggio delle banche da un lato e delle case automobilistiche dall'altro è un segnale piuttosto negativo. Un'altra grande preoccupazione appunto per il globo economico, e questa ieri è stata di nuovo espressa anche dal presidente della Banca Centrale Americana, Bernanke. C'è stato un altro movimento molto interessante negli ultimi mesi dal punto di vista valutario, che è stato osservato, adesso è tornato ad essere trascurato perché c'è stata una marcia indietro. La sterlina è finita quasi sulla parità sull'euro, adesso invece, dicevo, è ricominciato il trend opposto. Qual è la prospettiva della divisa britannica? Indubbiamente sembrerebbe che paradossalmente che l'economia inglese sia quella più in difficoltà per via della situazione degli immobili, che ha avuto dei riflessi molto molto negativi sul prodotto lordo, però la sterlina ha avuto una forte ripresa dopo, quando giustamente lei faceva riferimento, era arrivata quasi in parità con l'euro, e questo parliamo della fine dell'anno scorso, verso la fine di dicembre scorso. Poi c'è stata questa sorta di ripresa un po' perché la Banca Centrale del Regno Unito ha tagliato i tassi fino allo 0,50, quindi questo lascia intendere che probabilmente l'economia del Regno Unito potrebbe riprendere in maniera abbastanza relativamente veloce. In più non c'è un grossissimo tasso di inflazione, quindi in questo senso si presume che la sterlina possa in qualche maniera navigare in acque più tranquille. Sicuramente la ripresa rispetto ai minimi che aveva toccato a fine anno è stata molto forte. Molto spesso, tenga conto che capire esattamente cosa stia accadendo sulle valute è abbastanza complesso. È complesso. E fra l'altro, concludo subito. Sì, perché devo salutarla. Sì, è anche strano perché c'è una situazione politica all'interno del Regno Unito che è molto molto difficile da capire. E infatti sarebbe necessaria un'altra puntata per capire solo quella. Magari questo è un lancio che diamo così ad Alessandro Milan, perché so che tutto ciò che riguarda il gossip politico lo diverte molto. Grazie, grazie Drusiani, grazie a presto, a buona giornata. Hai sbagliato proprio indirizzo. Allora, non puoi sempre tu raccontare tutto quello che mi riguarda. Allora, anch'io prima o poi aprirò, ecco, L'armadio con i tuoi scheletri. Benissimo, ne troverai pochi. Comunque, alle 12 Salvador abbiamo per mezz'ora lo speciale della visita del presidente Obama in Egitto. Giusto. E poi noi cominceremo alle 12.30, parleremo del ritorno sotto mentite spoglie della commissione di Massimo Scoperto. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il premier Silvio Berlusconi è indagato per abuso d'ufficio nella vicenda dei voli di Stato. È un atto dovuto, specificano gli inquirenti dopo la denuncia del Codacons. Berlusconi si dice assolutamente tranquillo, ha rispettato le regole e stamattina, intervenendo a Tele Lombardia, ha aggiunto: sono meschinità della sinistra. Il presidente americano Obama è arrivato al Cairo, dove parlerà stamattina all'università. Per la Casa Bianca è solo un passo nel lungo cammino da percorrere per riavviare un dialogo tra gli Stati Uniti e il mondo musulmano. Intanto ricompare Osama Bin Laden, che in una registrazione audio accusa Obama di adottare la stessa politica di odio di Bush. E vi ricordo che ne parleremo con Giuliano Ferrara alle 9 e poi, come abbiamo sentito, alle 12 in uno speciale. Voleva avere un figlio dal marito in coma per un tumore al cervello, ma il tribunale ha respinto la richiesta di procedere alla procreazione assistita. Non è stata accertata la volontà di avere un figlio da parte dell'uomo, ha detto il tribunale, ma i legali della donna presenteranno ricorso. e invece è depresso e dunque lascia il carcere dove era detenuto al regime di 41 bis. Giacomo Ieni, presunto boss catanese, è agli arresti domiciliari, lo ha stabilito il tribunale di Catania che ha analizzato la sua cartella clinica e ha sentenziato Ieni in carcere, si è depresso. Decisione sconcertante l'ha definita la procura di Catania. Tutto questo all'8:33, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Dunque, tempo di scrutini, abbiamo detto, tempo di scuola, finiscono gli anni scolastici. E sapete che c'è una nuova legge, insomma, voluta dal governo, che prevede il ritorno ai voti decimali. Per accedere agli esami di Stato alle medie e per passare l'anno alle medie bisogna avere tutti 6, basta un'insufficienza, un 5. Anche, che ne so, in educazione fisica si può essere bocciati. Alle scuole secondarie, invece al liceo, basta la media del 6 per accedere, per esempio, agli esami. Ma insomma, tutto questo, che è stato anche fonte di discussione, non vale, questo abbiamo scoperto, nella provincia di Trento, che sapete è una provincia a statuto speciale, autonoma. Ne saluto l'assessore all'istruzione Marta Dalmaso. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, a Trento sostanzialmente quello che vale per tutta l'Italia, per un regolamento che voi avete approvato, avendo uno statuto autonomo, non vale sostanzialmente. Quindi non ci sono i voti decimali, per esempio? Ad esempio, non abbiamo reintrodotto i voti decimali, rimane per noi il giudizio per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sì. Poi non c'è il voto in condotta, non è vincolante, si è tanto parlato, ritorno al voto in condotta che può far bocciare, per voi no? Per noi no, infatti nel nostro regolamento abbiamo previsto che il voto in condotta abbia una valenza soprattutto formativa e che quindi non possa condizionare da solo la promozione o dello studente. E viene considerato nella valutazione globale del ragazzo, però ci sembrava che il bocciare un ragazzo perché merita il 5 in condotta fosse una risposta sbagliata ad un problema reale. Per esempio, leggo appunto nel primo ciclo di scuola, come ci ha spiegato, è stato respinto il ritorno ai voti numerici, la non ammissione alla classe successiva deve assumere un carattere di eccezionalità, questo è stabilito. Insomma, ma che cos'è una rivoluzione, una ribellione alle decisioni che valgono per tutta Italia? No, l'atteggiamento non è evidentemente questo, no? Non è una presa di posizione a priori per cui noi, siccome abbiamo uno statuto di autonomia, dobbiamo per forza fare cose diverse. Abbiamo maturato questa scelta alla luce dell'esperienza fin qui fatta. L'obiettivo nostro prioritario è quello di puntare al successo formativo dei ragazzi, quindi pensare come possiamo farli arrivare al termine del percorso, non con sconti a qualunque costo, abbassando il livello dell'apprendimento pur di far arrivare alla conclusione del percorso, ma attivando tutti i meccanismi di accompagnamento, di sostegno al percorso di apprendimento. E ci sembra che il voto in cifre sia la traduzione concreta, spicciola, di un atteggiamento che punta più proprio alla misurazione, no? Sì. Dove sei arrivato, stai attento, guarda che con il 5 ti boccio, eccetera. E ci sembra che l'attribuzione di una forza del voto in condotta per la bocciatura significhi rimuovere il problema, lo passiamo però, ad una classe successiva. Lei dice un po' la rivoluzione, no, però insomma un po' di, voglio dire, avete adottato proprio il fatto di essere a statuto speciale, vi ha permesso di andare contro decisioni che valgono per tutto il resto della nazione, insomma questo è un dato di fatto. Nelle nostre potestà e l'abbiamo fatto a ragion veduta, quindi con una riflessione che per noi è stata molto importante per mantenere una visione di scuola che ci sembra irrinunciabile. E quindi quando noi pensiamo a situazioni di ragazzi difficili, pensiamo alla fatica che può esserci in determinate discipline, noi ci chiediamo qual è lo strumento che possiamo mettere in campo per aiutare il ragazzo o la ragazza ad avere successo. Sì, sì, no, ma questo è tutto quindi, chiaro. Noi pensiamo di affiancare i ragazzi con interventi di sostegno e di supporto, pensiamo di aiutare gli insegnanti in una preparazione al proprio lavoro che consenta anche di aggiornare le metodologie didattiche. Di no, ma questo sì, è che ieri per esempio sulla stampa Flavia Amabile ha definito lei, insomma, la prima spina nel fianco, insomma, di questa riforma voluta dal ministro Gelmini, voluta dal governo. Comunque, assessore, stia con noi, perché io voglio salutare, voglio spostarmi un po' più a sud, a Roma, dove saluto Ada Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno assessore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei è preside della scuola media Esopo a Roma, abbiamo letto che insomma nelle scuole medie, quindi a Roma non c'è statuto speciale, vale quello che ha deciso il governo, c'è questa vicenda per cui insomma non si può passare all'anno successivo se non si ha tutti sei, si rischia di essere bocciati anche con un 5 in educazione fisica, per esempio l'accesso per esempio agli esami di Stato, bisogna avere tutte le sufficienze. E allora abbiamo letto che lei ha detto ci siamo inventati, non so se è così, una sorta di sei rosso, cioè che vuol dire? Sì, allora sei rosso, noi non abbiamo ovviamente coniato questa espressione, però calza abbastanza bene, vuol dire che teniamo sempre conto che la valutazione ha una valenza formativa, sono pienamente d'accordo con l'assessore Dalmaso su quanto ha detto finora, e dovendo fare i conti però con una norma che ci impone una non ammissione all'anno successivo agli esami di Stato con un 5 in qualsiasi materia, compresa la condotta e ad eccezione della religione cattolica per chi se ne avvale, abbiamo immaginato che almeno un 30-40% di alunni per classe potesse presentare un'insufficienza di questo tipo, non potendo, facendo due conti ovviamente, bocciare tutti questi ragazzi perché avremmo creato problemi alle classi di provenienza, noi manteniamo la valutazione reale, cioè se un ragazzo presenta. Ma perché, perché non potendo bocciare le persone? Cioè voglio dire, nel momento in cui si stabilisce una regola, sbagliato, giusta che sia, io non la voglio giudicare, per carità, se no si entra in un altro campo. Perché dice non possiamo bocciare il 30-40% di studenti? Perché la valutazione è formativa e io ritengo, con l'accordo pieno del collegio dei docenti della scuola dove lavoro, che bocciare sia un evento del tutto eccezionale, quindi noi ci siamo dati la regola che un 5 solo in una materia possa essere recuperato dal ragazzo con uno studio estivo che noi raccomandiamo e sottoponendolo ad una prova di verifica che non possiamo certo chiamare esame di riparazione, che verrà svolta nei primi giorni di settembre, quindi prima che inizino le lezioni, e questo fa sì che il voto sia reale, cioè i ragazzi non hanno la percezione di essere stati tra virgolette salvati, mantengono una sorta di debito, anche se nella scuola secondaria di primo grado non esiste il debito. Ecco, quindi noi li promuoviamo con un 6, che però loro sanno che è un 6. È un 6 così. Ma voglio dire, non è. Tra l'altro, credo che ieri ci siano stati i primi consigli di classe per gli scrutini. Com'è andata? Non ci dica nomi perché insomma poi gli scopo, però voglio dire come si è risolta questa cosa? Cioè avete dato dei 6, avete tramutato, non so, uno studente che aveva un 5, gli avete messo 6, però così. Allora noi abbiamo votato nei casi di dubbio, cioè laddove non c'era una sufficienza piena, abbiamo votato in consiglio di classe, consiglio per consiglio, ieri ne sono stati scrutinati sei classi, abbiamo votato a maggioranza in alcuni casi, all'unanimità in altri casi, perché questa insufficienza diventasse un 6 in pagella, ma che venisse comunicato alla famiglia la carenza nella materia, con il consiglio obbligato di studiare l'estate e di sottoporsi a questa prova di verifica. Ma lei crede che questo sia un, non lo so, le faccio una domanda senza intento polemico, un vero percorso formativo? Perché si è detto, ma insomma, torniamo anche un po' a bocciare, perché insomma può anche essere questo a dire, non guardi, si boccia ormai più nella scuola. Non è applicabile questa cosa nei fatti, come le dicevo prima. Bocciare ragazzi che abbiano una sola insufficienza in qualsiasi materia, senza fare nessuna distinzione ovviamente tra le materie, significa annullare la valenza formativa della valutazione che da oltre 30 anni, ricordiamo tutti la legge che ha introdotto il concetto di valutazione formativa nel 1977, e bocciare per una sola insufficienza significa annullare tutto questo. Quindi noi diamo seguito alla norma del nostro ministero, ovviamente. No, vorrei, assessore Dalmaso, assessore alla provincia di Trento, assessore istruzione e anche sport, che ne pensa, insomma, è una formula, non sono un po' degli escamotaggi, tutti legali per carità, voi perché avete lo statuto speciale, la scuola che si, diciamo, dà questo 6 rosso, è stato definito così dai giornali, laddove è un 5 traballante che diventa un 6, ma d'altronde non possiamo bocciare per un solo 5. Ma io credo che sia inevitabile che succeda questo, perché provi a ribaltare il ragionamento. E pensando allo spreco di energie umane anche di ragazzi, di giovani che si ritrovano a dover ripetere un anno con tutte le materie che magari hanno affrontato con successo, con discreto successo, per una che dovrebbero invece recuperare, sulla quale dovrebbero puntare di più l'attenzione. A me pare veramente che una norma così predisposta imponga quasi di trovare delle soluzioni, uno scamotage, per evitare veramente delle situazioni direi paradossali, anche perché statisticamente è provato che la bocciatura nella stragrande maggioranza dei casi non porta maggiore motivazione, maggiore impegno, porta piuttosto all'effetto contrario. Quindi noi avremmo veramente uno spreco complessivo di risorse da tutti i punti di vista, oltre a non aver valorizzato le capacità e le risorse dei ragazzi stessi. Sì, io vorrei in conclusione alla preside Ada Maurizio, è vero che ci sono indicazioni delle scuole, anche ai presidi, a dire mi raccomando non bocciate troppo, ci sono poi i ricorsi al TAR, i genitori disperati che vengono qui, appena c'è una bocciatura ci fanno un bel ricorso e poi lo vincono? Allora, guardi, noi abbiamo l'esperienza del primo quadrimestre, non parlerei di ricorsi, ma sicuramente c'è una maggiore attenzione dei genitori a come la scuola valuta, cosa che negli anni precedenti non era così. Io ho dovuto gestire per esempio una richiesta di accesso agli atti perché i genitori volevano capire molto perché? Da vicino come la scuola si era regolata. È possibile che ci saranno più ricorsi del solito, questo sì. Invece per quanto riguarda la domanda che lei mi fa sull'atteggiamento dei presidi, io non sono a conoscenza di questo, cioè non mi risulta che noi diciamo ai collegi e ai consigli non bocciate, però ribadiamo, per quello che risulta a me, il valore della valutazione come processo e non come momento questo ce l'ha spiegato. No, io vi ringrazio sia l'assessore all'istruzione e allo sport alla provincia di Trento Marta Dalmaso che Ada Maurizio, preside della scuola media Esopo a Roma. Vedremo, tempo di scrutini, sono arrivati tantissimi messaggi quando si parla di scuola, sempre la scuola interessa milioni di italiani, ovviamente per chi è docente, per chi ha figli eccetera. Rita ci scrive per esempio: quello che fanno alla scuola media lo fanno in tutta Italia, non lo so, è una docente evidentemente, lo fanno anche nella scuola in cui è docente Rita. Allora, alle 8:48 minuti torniamo a parlare di scuola perché, ripeto, l'interesse è molto molto alto. Intanto voglio salutare Giorgio Fidenato. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Lei è presidente dell'Associazione Agricoltori Federati della provincia di Pordenone, dunque siamo in Friuli. Allora, lei ha deciso di mettere da qualche mese in busta paga dei suoi dipendenti, anziché il compenso netto, dopo tutte le trattenute, il compenso lordo. Perché? Perché diciamo che io ideologicamente sono un po' allergico a tutto ciò che è statale, ma diciamo che questa operazione di sostituto d'imposta stava diventando molto molto pesante, molto costosa, e sono stanco di fare il gabelliere per lo Stato, insomma, di lavorare gratis per lo Stato. Cioè, no, ce lo spieghi meglio. Allora, i suoi dipendenti ricevono il lordo, quindi però lei dice: attenzione, cari dipendenti, c'è tutte le trattenute all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, dovete versarle, cioè non è che facciamo certamente un'evasione fiscale. No, provvedete a farlo voi, però, invece che come tutte le aziende d'Italia, dove lo fa l'azienda, insomma. Certamente tutto è la luce del sole, tutto è cristallino. Io mi sono autodenunciato e ho invitato i miei dipendenti appunto a contattare l'Agenzia delle Entrate per farsi dire come devono versare questi contributi, l'IRPEF, l'addizionale regionale, eccetera, eccetera, perché proprio non voglio fare incorrere e non voglio incorrere io nell'evasione fiscale. Ma accidenti, come mai lei lo fa? Voglio dire, tutte le aziende d'Italia fanno questo lavoro, cioè fanno tutti i calcoli, trattengono alla fonte appunto, e noi ci ritroviamo il netto. Io penso che nessun imprenditore abbia pensato al proprio ruolo in maniera approfondita. Io penso invece che non sia legittimo da parte di chi che sia imporre a me come imprenditore una prestazione personale. Penso che ciò sia garantito dalla Costituzione e penso che finalmente anche i dipendenti forse potranno capire chi è il vero esattore, insomma, se è il datore di lavoro che non gli dà una adeguata busta paga o se c'è qualcun altro che gli trattiene più del dovuto. Ah, perché lei dice se no, beh, lo sappiamo, insomma, che le detrazioni vanno in tasse, cioè non è che se le mette in tasca. Molti dipendenti, io penso il 90%, non sa leggere una busta paga, non si rende conto dell'effettivo esborso, quindi adesso hanno la possibilità di vedere direttamente, perché appunto loro si trovano e sono contenti, si trovano una busta paga molto sostanziosa, e io però è finta. Ho detto attenzione, guardate che dovete lasciare tot di IRPEF, tot di contributi IMSS, tot di addizionale regionale, tot di addizionale comunale. Cioè lei è stanco di farlo lei, nel senso lei non vuole farlo come azienda, come titolare dell'azienda. Qual è l'obbligo morale, perché io devo lavorare gratis per lo Stato. Se lei mi chiede oggi di fare un lavoro, io le dico ma perché devo fare un lavoro per lei? Però lo Stato si permette, si arroga il diritto di farlo. Mi pare che la Costituzione non legittimi questo comportamento, quindi io ho ritenuto di non fare più il gabelliere. Lei ha anche avvisato, credo, l'Agenzia delle Entrate, quindi il Ministero. Certamente, a dire guardate che io non raccolgo, non faccio più il lavoro di detrarre tutto e di far pagare perché non sono pagato per questo? No? Non solo per questo, a me non interessa essere pagato o non essere pagato, cioè, e questo è ancora un risvolto ulteriore. Io non voglio fare questo lavoro perché è nella mia legittimità decidere che lavoro debba fare. Per di più non è neanche pagato, penso un po' lei, quindi perché io devo continuare a fare il gabelliere gratis? Certo che però adesso non sono neanche pagati i dipendenti che devono perdere magari tempo, andare... L'onere di pagare le tasse, i benefici che derivano dal versamento dei contributi va ai lavoratori. Quindi i lavoratori sono loro che sono contribuenti, quindi perché io mi devo caricare di un onere, di un lavoro e poi fare un lavoro che non è poi molto apprezzato. No, ma le chiedo tra l'altro due cose. La prima, ancora mettendomi nei panni del dipendente, il dipendente distratto che non fa questa cosa, mo si trova anche a fare l'evasore fiscale. Sarebbe il primo caso di evasore fiscale di un dipendente con la trattenuta alla fonte? I dipendenti hanno seguito il mio consiglio, hanno già contattato l'Agenzia delle Entrate, hanno fatto le raccomandate, chiedendo appunto, comunicando che il suo datore di lavoro non fa le più tenute per loro conto, e quindi lo devono fare. E hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate come devono fare a versare l'IMSS, l'IRPEF, l'addizionale regionale, quindi è tutto alla luce del sole. Ma questo sì, però come le voglie di, se mi permette questo termine, rivoluzione, no? Magari partono anche da mosse come quelle che sta facendo lei. Però le chiedo, al Ministero credo che le abbiano già risposto a dire, caro Fidelato, hanno risposto che lei sta violando la legge, insomma. Sì, fra l'altro io ho adotto anche il discorso delle difficoltà economiche, quindi risparmiare sul consulente del lavoro mi porterebbe in questo momento di difficoltà economica un vantaggio. Ovviamente il Ministero ha risposto picche, nel senso che dice no, c'è una disposizione di legge. Ma sappiamo che ci sono moltissime leggi che sono state poi dichiarate anticostituzionali, insomma. Quindi cioè lei non è detto che perché una legge l'ha fatto il Parlamento sia legittima. No, per carità, quindi lei vuole violare la legge, le arriverà la contestazione, che fa? La impugna perché è anticostituzionale? Impugneremo appunto questo gruppo di imprenditori, perché io faccio la testa d'ariete per un folto gruppo di imprenditori, è già pronta e disponibile a sostenere le spese legali che dovremo sostenere appunto per portare avanti la nostra azione di legittimità. Accidenti, ma è proprio determinato, Fidelato? Io perché più che altro seguo il diritto, leggo la Costituzione, e se forse qualche imprenditore la leggesse meglio, forse troverebbero spazio anche per queste azioni. Dice, cari imprenditori, ascoltatemi e smettete di fare questo lavoro della ritenuta alla fonte, fatela fare ai dipendenti, no? So che un partito che oggi ha governo, la Lega Nord, nel settembre del 2007 ha dato i 13 punti e uno dei 13 punti era la politica. No, vabbè, ma non la butti in politica, sennò poi dopo no, che siccome c'entra? Non lo fanno loro, lo facciamo noi. Ah, lei dice, va bene, io la ringrazio di questa chiacchierata amabile, va bene, le faccio tanti auguri, vedremo quando le scriverà il ministero, insomma la seguiremo in questo suo percorso. Giorgio Fidenato, presidente dell'Associazione Agricoltori Federati della provincia di Pordenone, con lei chiudiamo. I ringraziamenti ad Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, il viaggio di Obama giunto al Cairo, oggi un importantissimo discorso molto atteso dal mondo musulmano alla più importante università islamica, all'Azhar. E allora noi ci ritroviamo domattina.